Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, gastronauti vicini e lontani. Bene, oggi parleremo di vino, ma con un taglio molto particolare, cioè se si può fare il vino senza uva. Ecco, questo è uno degli argomenti di cui tratteremo, perché diciamo che c'è un fenomeno che si chiama la wine kid, specialmente nel nord Europa, dove si fa il vino in casa, e vedremo come, e vedremo anche quali sviluppi sta avendo. Ma poi toccheremo anche il prosecco, perché il prosecco, visto il grande successo, comincia a dare noia, e quindi in Inghilterra, visto appunto il successo, viene distribuito addirittura dai pub direttamente a pressione, così come si fa con la birra, e vedremo quali sono appunto i modi per intervenire, se è corretto o scorretto. È con noi il professor Leonardo Valenti, che ci accompagnerà durante questa puntata. Professore di viticoltura all'Università degli Studi di Bologna, nonché consulente di diverse aziende vinicole. Bene, 800 24 0024, chi volesse intervenire su questi argomenti, 349-238-6666. Allora io voglio cominciare proprio da Leonardo Valenti, perché prima mi raccontava un particolare dei wine kit che sembrano nati ieri, invece non è così, professore. No, non è così. In effetti io una quindicina d'anni fa, in vacanza con la famiglia in Islanda, a Reykjavik, sono stato in qualche modo attratto da una vetrina in cui c'erano molti nomi italiani importanti, Chianti, Barolo, Barbaresco, e mi ha incuriosito, mi sono avvicinato e ho visto che questi riportavano nomi di come fare questi vini. Per cui vuol dire che è una storia abbastanza datata per quanto riguarda, forse probabilmente anche prima delle mie osservazioni di 15 anni fa. Quindi non è un fenomeno attuale, ma io voglio chiedere a Giuseppe Liberatore, presidente FederDoc e direttore anche del consorzio Chianti Classico. Liberatore, ma si fa qualcosa, si sta facendo qualcosa appunto per proteggere questi nostri vini? E mi pare che anche il Chianti Classico sia veramente, come posso dire, uno dei protagonisti, e a sua insaputa ovviamente, di questo fenomeno che sta succedendo all'estero. Buongiorno Liberatore. Buongiorno a tutti e buongiorno anche agli ascoltatori. Prima di tutto voglio sottolineare il fatto giusto che diceva il professor Valenti, perché già 10 anni fa era, mi ricordo, ministro degli esteri l'onorevole Bonino, noi sollevammo già questo tipo di problema per i kit che già esistevano sui mercati, per cui il fenomeno oggi è esploso, ma di fatto è da diversi anni che questi prodotti vengono venduti sul mercato. Io ritengo che noi tutti oggi stiamo cercando di contrapporci a questo tipo di operazione, a questo tipo di vendita, soprattutto anche perché in Europa, almeno da pochissimo a questa parte, cioè da un anno e mezzo a questa parte, esiste la cosiddetta protezione ex officio, cioè significa che di fatto in tutti gli stati membri dell'Europa, rispetto a delle usurpazioni o degli usi indebiti che vengono fatti di nomi, di denominazioni, si possa rivolgersi allo Stato membro dove chiaramente questo fenomeno avviene, per far sì che ci sia una azione di contrasto e quindi di sanzioni o di eliminazione del prodotto dal mercato. Oggi queste condizioni ci sono, so che le nostre istituzioni lavorano in questa direzione e io penso che è questo quello che bisogna fare. Il problema vero comunque esiste nei paesi terzi, dove tutto ciò non avviene, e anche questa storia dei kit fatti in Canada effettivamente è un altro di quei problemi dove ci sono, cioè abbiamo mani legate, cioè è difficile intervenire senza un accordo bilaterale. Beh, però abbiamo un fenomeno in Irlanda dove addirittura esiste un negozio che vende wine kit, e addirittura nelle confezioni c'è scritto soddisfatti o rimborsati. Quindi non è che sia molto lontano il fenomeno. E poi non solo, abbiamo uno scandalo in Italia scoperto poco tempo fa a Reggio Emilia, dove era la vera centrale di produzione di questi prodotti che poi vanno a comporre questo wine kit. Ripeto, oggi ci sono le condizioni per combatterlo, e noi questo, ripeto, come consorzio, come federazione dei consorzi, come consorzio anche nostro, ci battiamo per questo tipo di discorso. è un qualcosa che, ripeto, oggi ci sono gli strumenti, vanno attuati e vanno fatte le dovute pressioni, certo, affinché questo a livello europeo venga diciamo fatto, perché è un regolamento europeo, quindi questo vale su tutte le nazioni che fanno parte delle UE. Senta, Liberatore, ma diciamo sono state date delle valutazioni a questo fenomeno economico, che sono sempre da prendere con beneficio di inventario. Chi ha detto 60 milioni di euro? Lei cosa ne pensa su questo? Sulle cifre andrei molto molto cauto, perché poi anche il famoso Italian Sounding dei 60 miliardi euro, certo, sono anche tante altre cifre, certo, buttate lì per caso. Una stima andrebbe fatta in modo, secondo me, reale, e comunque secondo me non si arriva alle cifre dei 60 milioni di euro. Su però una mia ultima battuta, ma poi la esploreremo, guarda caso siamo sempre noi che veniamo contraffatti, mentre i francesi... Veniamo contraffatti perché qui alla fine ormai il famoso liberismo sfrenato degli australiani ha fallito. Gli americani, che non vogliono fare nessun accordo con noi, ma usano le nostre denominazioni in modo così corretto o scorretto, i nostri vitigni, quindi alla fine il problema è che noi, le nostre denominazioni, i nostri vini sono tra virgolette come nomi appetibili, certo, riconoscibili in tutte le parti del mondo, e quindi questo determina questo scopo. Bisogna che il successo si paga, come dico sempre io. Grazie a Giuseppe Liberatore. Giovanni da Bari, un radioascoltatore, buongiorno Giovanni. Senta, io di questi fatti, di questi vini fatti in polverina, bisognerebbe poi dire aspetti positivi e aspetti negativi. Perché aspetti positivi? Ci dica gli aspetti positivi. No, volevo sapere, diciamo, da parte nostra, che fate questa pubblicità, questa pubblicazione, queste trasmissioni, bisogna dire, questo è un prodotto fatto in un certo modo. Io quest'anno per Natale ho comprato una bottiglia di spumante Prosecco, pagata 8,50 euro, e che di tutto sapeva forse di vino Prosecco. Sapeva, scusi, non ho capito, sapeva di vino? No, di tutto sapeva, forse di vino, sembrava una gazzosa. Ho capito, ma guardi, le faccio rispondere subito, un secondo e sentiamo, guardi, glielo introduco anche. Prosecco. Prosecco. Ma dove va? Abbiamo con noi Stefano Zanette, presidente del Consorzio di tutela del Prosecco DOC. Volevo parlare appunto di cosa succede in Inghilterra, però Zanette, ha sentito questo radioascoltatore? Sì, buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Sì, ho sentito, innanzitutto bisognerebbe capire se effettivamente questa bottiglia di Prosecco è una bottiglia di Prosecco certificata, se ha la fascetta. Visto il prezzo, potrebbe essere anche una bottiglia, diciamo, legale. Mi sorprende un po' che al giorno d'oggi si possa trovare un prodotto che non sia, dal punto di vista qualitativo, ineccepibile, perché la qualità del Prosecco da quando è nata la DOC, che c'è la certificazione anche nella DOC, sicuramente si è innalzato il livello qualitativo, perché la produzione è tutta certificata. Ecco Zanette, io comunque l'avevo chiamata per un'altra cosa, l'avevo chiamata perché appunto c'è questo fenomeno in Inghilterra, appunto, di qualche pub che dà, appunto, offre il prosecco a bicchiere, però così come si offre la birra, cioè con, diciamo, a spina. Quindi credo che questo non sia visto il grande successo del prosecco, sicuramente so che voi siete intervenuti, ci sono vari interventi, però mi chiedo cosa si può fare di fronte a questo fenomeno. Ma innanzitutto quello che noi nel fattispecie, proprio nello specifico di quello che sta avvenendo nel Regno Unito, abbiamo fatto in seguito a questa segnalazione la visione di pubblicità molto anche diffusa, abbiamo fatto comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole nel particolarmente al Dipartimento di Ispettorato all'ICQRF, che si è attivato con il suo diciamo omonimo Dipartimento dell'Ambiente, del Cibo e del Vino, che è relativo al Ministero delle Politiche diciamo dell'Agricoltura, ecco, del Regno Unito, e lì per fermare questa pratica illegale, perché è una pratica illegale. Nel nostro caso è proprio una usurpazione di quello che è il nome e la qualità, perché abbiamo dei disciplinari che ci certificano la nostra produzione, dove viene detto che il prosecco può essere solo commercializzato in bottiglia. In questo caso la commercializzazione è proprio fraudolenta e va a danneggiare sia il consumatore, in questo caso britannico, che è la cosa, cioè il consumatore per la comunità europea è il primo che deve essere tutelato, che sia chiarissimo. Poi vengono danneggiati i produttori italiani, perché è una concorrenza sleale. No, certo. L'Italia, perché è una sua eccellenza che viene danneggiata, e in ultima ma non per ultima l'Unione Europea, perché a toccare le regole. Esatto. Io la ringrazio, grazie a Stefano Zanetti. Sì. Sentiamo Cesare da Verona, un radioascoltatore. Buongiorno Cesare. Sì, buongiorno a voi e anche ai telespettatori, ai nostri audiospettatori, insomma. Niente, io volevo intervenire sul discorso qualità di questo vino, presumibilmente liofilizzato, o il kit, insomma, di acquisto di questo vino fantasma. Ecco, io vorrei portare all'attenzione la qualità confrontata con una bottiglia DOC, perché io penso che la gente, essendo abbastanza ormai anche in Inghilterra o in Nord Europa, dappertutto, avendo confrontato o avendo avuto un modo di provare del vino in bottiglia, sarebbe insulso, secondo me, fare tanto polverone per degli acquisti dei vino che la gente sicuramente non so fino a che punto li può acquistare, queste robe qui. Ma guardi, queste perché robe qui si possono. Il discorso del prosecco, anche il discorso del prosecco in Inghilterra, siccome io ho sposato un inglese e vado spesso in Inghilterra, a Londra o in varie parti dell'Inghilterra, io non so quanto prosecco in bicchiere alla spina si possa vendere in Inglilterra. Bene, guardi, sinceramente gli inglesi ormai si sono fatti furbi e comprano le bottiglie nei vari negozi, e quindi nel momento in cui vanno in un pub e ordinano un prosecco e gli danno una qualità scarta venduto alla spina, penso che in quel pub non ordineranno più un prosecco. Va bene, grazie. Appunto, questo che il problema è grosso da questo punto di vista, che se c'è una qualità scadente, diciamo che l'immagine di un vino che oggi è il vino cult in giro per il mondo, perché se andiamo a vedere le esportazioni veramente è incredibile il successo di questo vino, può creare tutta una serie di problematiche. Dove si compra? Beh, si compra anche su Amazon, eBay e tanti altri siti, non è che si compri solamente diciamo il vino, il Wine Kid, si compri solo in certi negozi, tra cui quello irlandese di cui abbiamo citato. Comunque abbiamo con noi ora, è stata citata prima il Dipartimento Ispettorato Repressione Frodi, appunto, del Ministero, abbiamo Stefano Vaccari, che è il capo dipartimento, appunto, di questo ispettorato. Buongiorno Vaccari. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Senta Vaccari, cominciamo dal prosecco, cosa si può fare? Ma intanto noi, devo dire, siamo molto contenti di essere intervenuti su un'attività di un prodotto di grande successo. I falsi sono un'indicazione del successo. Noi già da mesi avevamo investito le autorità britanniche sui siti internet. Devo dire che l'ICQRF, ma grazie anche al protocollo che il ministro Martina ha firmato con eBay, ha fatto un'operazione nel 2014 di chiusura di siti che nessun altro in Europa ha fatto, per cui avevamo già chiuso dei siti che vendevano Prosecco on Tab. Con la segnalazione del consorzio del Prosecco, con cui ci sono sempre dei rapporti strettissimi, siamo intervenuti anche sulla Food Standards Agency, che è l'altra agenzia inglese oltre al DEFA, e credo che questo intervento massiccio abbia alla fine fatto ancora più pubblicità al vero Prosecco, cioè su un prodotto di successo bisogna distinguere il vero, ma bisogna distinguere anche il falso, cioè è quasi un elemento di marketing il falso. Mi ha fatto piacere anche sentire il radioascoltatore che parlava della qualità. È vero, chi ha bevuto un vero prosecco, alla fine il prosecco alla spina sa che è una cosa diversa, ecco. Ma sentiamo Roberto da Bergamo, un radioascoltatore. Buongiorno Roberto. Sì, pronto, buongiorno, buongiorno a lei. Prego. Complimenti a tutto. No, volevo semplicemente raccontare che fino agli anni 50 bere prosecco alla spina era normalissimo, eh. Questo non vuol dire che sia questa la qualità, debba essere per forza quello della bottiglia. Io non voglio difendere il vino alla spina o queste cose, per carità, distinguiamo quello che vuol dire qualità. Lei ha perfettamente ragione, ci sono ancora dei discreti vini che girano serviti alla spina. Diciamo che dopo l'86, il famoso scandalo del metanolo, insomma, qualcosa sulla qualità del vino in Italia è cambiato e oggi diciamo che la qualità media è decisamente superiore. Ma poi, per quanto riguarda appunto il discorso di com'è questo vino in Wykid, sentiremo il professor Gerbi che ha fatto un esperimento. Ma io voglio fare intervenire ora Rolando Manfredini è il responsabile qualità Coldiretti. Buongiorno Manfredini. Buongiorno agli ascoltatori. Senta Manfredini, voi avete anche dato un'indicazione di questo fenomeno del Wine Kid intorno a 20 milioni di bottiglie. È così grande questo fenomeno? Perché da altre parti viene molto sminuito. Diciamo che per noi, per quanto riguarda la nostra esperienza, tra l'altro noi abbiamo verificato anche sul posto, perché oltre ovviamente a parlare dell'Europa, dell'Inghilterra o della Svezia, dove si stanno diffondendo, si sono diffusi questi wine kit, che tra l'altro ricordo hanno poi alla fine anche cambiato nome per ingannare di nuovo il consumatore, sono estremamente diffusi anche nelle zone del Canada, per esempio, dove c'è il primo produttore di wine kit a livello mondiale, che tra l'altro era anche un produttore di vino. Quindi, cioè, la nostra esperienza è questa: noi abbiamo calcolato più o meno che circolano in Europa circa 20 milioni di bottiglie. La cosa che vorrei mettere in evidenza rispetto al wine kit, detto che appunto è un vino non vino di fatto, perché noi continuiamo a parlare di wine kit come se fosse un vino, ma questo è un vino non vino, e questo il telespettatore lo deve capire, certo. E capire chiaramente, e dopo glielo faremo capire, perché spiegheremo come avviene. Esatto, e quindi voglio dire, in una situazione di questo genere certamente per noi è un falso di fatto, che ha una caratteristica però notevole in negativo, che è lo stesso falso che porta il componente della famiglia in casa. Cioè, noi ci dobbiamo rendere conto che effettivamente il falso magari con cui ci confrontiamo per altri prodotti sono delle industrie che producono delle situazioni produttive, ma qui effettivamente chi opera poi la trasformazione, chi porta il falso in casa, è lo stesso componente della famiglia. Quindi la questione è ancora per certi aspetti più grave se non è ovviamente informato in maniera corretta su quello che è il wine kit. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo, andiamo al Wine Kid. Andiamo al Wine Kid e diciamo che do un diritto di precedenza al professor Vincenzo Gerbi, ordinario di scienze vinicole ed enologiche alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell'Università di Torino, perché si trova in Brasile e molto gentilmente ha detto che era disponibile. Buongiorno Gerbi. Buongiorno, tutto bene? Bene, lei ha fatto questo esperimento, cioè si è comprato su Amazon assieme all'ONAV di Torino, ha comprato questo Wine Kid e ha proceduto alla produzione di questo vino senza uva, che non è vino. Giustamente prima il responsabile della Coldiretti ha detto, segnalatelo, è senza uva, quindi non si può chiamare vino. Ci racconta quali sono stati i risultati? Ma dunque, noi abbiamo fatti due, in realtà, uno bianco e uno rosso, era un Gewürztraminer ed un Montepulciano. L'operazione in sé, tra l'altro, non è semplicissima, perché richiede a chi le fa in casa, questi kit prevedono la diluizione di mosto concentrato che è contenuto in una sacca di plastica sostanzialmente, e poi devi seguire le istruzioni per poter far fermentare questo prodotto, che diluendolo con acqua, e qui è un altro problema, perché già di per sé mettere dell'acqua nel vino, non si può, e quindi andiamo un po' ai limiti della legalità. Diluendolo opportunamente si ritorna ad una concentrazione di zuccheri che è compatibile con quella di un mosto normale, quindi si aggiunge il lievito che è già compreso nel kit e le sostanze nutrienti per il lievito e si aspetta che finisca di fermentare, il che capita circa in una settimana, 8 giorni. Dopodiché il kit prevede un chiarificante a base di chitosano che viene somministrato al vino e si lascia sedimentare, e dopodiché praticamente è pronto, dopo che è illimpidito. Loro dicono nel kit che è perfetto dopo 4 settimane, in realtà l'operazione si conclude circa in 3 settimane per avere una sedimentazione sufficiente, e a quel punto nel kit ci sono addirittura i tappi e le etichette, devi soltanto mettere tu le bottiglie e concludere l'operazione. Pare addirittura che in Irlanda si mettono anche etichette personalizzate per matrimonio d'altro su questo. Il risultato alla degustazione, perché voi avete fatto anche una degustazione. Assolutamente sì. Ma guardi, il risultato è stato particolarmente deludente nel caso del vino bianco, perché la produzione in questa maniera, così in vaso aperto, senza un controllo della temperatura che è fondamentale nella produzione di vini bianchi, ha prodotto un vino con una sensazione di ossidato, cioè già di vecchio, assolutamente sgradevole, devo dire. Quindi anche volendo non partire con dei pregiudizi, quindi ben disposti nell'assaggio, era proprio pessimo. Il vino rosso, diciamo, essendo ben dotato di sostanze antiossidanti, perché quel mosto concentrato che hanno messo nel kit, io l'ho assaggiato, non era un prodotto sgradevole, insomma, quindi si è difeso meglio e non aveva queste sensazioni così sgradevoli, ma è un vino molto vuoto perché non ci sono componenti dell'estrazione dalle bucce, quindi diciamo, uno che abbia un po' di pretese potrebbe aggettivarlo con acqua sporca, ecco, insomma. va bene professore, io la ringrazio perché l'abbiamo disturbato in Brasile, grazie di questa sua spiegazione così chiara. Quindi lasciate perdere il Wine Kid, comprate un vino, anche perché non costano poco questi Wine Kid, quindi se uno fa i calcoli poi alla fine si possono trovare anche vini italiani, non dico sullo stesso livello ma con qualcosina in più. Sentiamo Salvatore dalla provincia di Benevento. Buongiorno Salvatore. Buongiorno, io chiamo da Solopaca, è un paese dove si produce vino POC, e vorrei dire che a livello nazionale credo che il problema sia poco, diciamo, un problema, diciamo, non molto grave, perché penso che con la grande produzione di vini DOC che c'è in Italia e con la nostra legislazione sia facile contrastare il fenomeno di queste sofisticazioni e di questi usi indebiti di questi vini. Beh, il problema si pone a livello internazionale, perché in mancanza di accordi tra i paesi e in mancanza di una legislazione adeguata è possibile produrre anche vini con nomi di località tutelati in Italia in maniera, diciamo, legale negli altri paesi. Beh, guardi, questo non è proprio così, perché sì, fuori dalla comunità europea è vero, ma oggi ci sono anche degli accordi di libero scambio con alcuni paesi. Vaccari, volevo far intervenire lei su questo argomento che il nostro Salvatore ha sollevato, molto interessante. Guardi, in Europa ci difendiamo alla grande, lo dico perché solo nel 2014 noi abbiamo aperto oltre 150 casi di protezione, si chiama ex officio tecnicamente, cioè una denominazione protetta in Europa è protetta dappertutto, e veramente perdo 30 secondi per dire quanto sia importante questa protezione, perché il prodotto a denominazione protetta non è più un prodotto solamente agricolo, diventa patrimonio culturale dell'Unione. E notate bene che il patrimonio culturale dell'Unione è protetto dentro l'Unione direttamente dal trattato, per cui è compito proprio dell'intera Unione proteggerli. Sarò più semplice: se noi vogliamo proteggere il Prosecco, non è solo una questione italiana, perché il Prosecco è una denominazione, entra nel patrimonio culturale dell'Unione, tutta l'Europa lo deve proteggere, non solo noi italiani. Lei è molto ottimista comunque, credo. Ma che... Ma guardi, no, lo siamo, perché onestamente i risultati ci danno ragione. Ormai in Europa si sta lentamente creando, perché è un processo culturale che in altri paesi non esiste, cioè l'idea di proteggere una cosa che non è un trademark in altri paesi è quasi una bestemmia. Cioè, noi, per farlo capire ai nostri colleghi inglesi, quando abbiamo sequestrato da Harrods l'olio toscano, ci abbiamo messo una settimana solo per spiegargli giuridicamente che non si poteva fare, ecco. Così che per il prosecco, ma ecco. Veramente i risultati sono buoni. Speriamo che nella continuazione magari quel negozio in Irlanda venga chiuso, che in Italia non ci sia più una centrale come a Reggio Emilia, perché gira rigira anche per quanto riguarda l'Italian Sounding. Se andiamo poi a vedere i nomi di chi produce, sono tutti italiani o italianizzati nel tempo negli Stati Uniti. Chiudo la parentesi mia così abbastanza provocatoria, ma sentiamo Giorgio da Padova, un radioascoltatore. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti. Io mi leggo alle ultime parole che ha detto lei, no? Sì. Esposto un attimo la questione sul punto di vista industriale, considerando che al giorno d'oggi non esiste più un settore primario, ma che vino, formaggi, eccetera, sono prodotti industriali, per cui dietro ci sono aziende. Allora trovo difficile che ci siano degli imprenditori stranieri che rinuncino a fare profitto per una questione culturale o per altre questioni. Allora io ho avuto degli incarichi pubblici che mi hanno messo in condizione di fare delle trattative. Ho fatto un'esperienza forte sul formaggio, che ha degli aspetti similari, nel senso che ci sono prodotti Italian Sound, ci sono prodotti imitati, eccetera, eccetera, che molti imprenditori italiani vanno a produrre all'estero. Certo, ecco, questo è il punto. Il nome, ecco. E poi le importano e vendono in Italia. È chiaro. Allora, nello specifico, io avevo fatto una trattativa con il più grande distributore di formaggi del Nord e Sud America in distribuzione organizzata, a sua volta italoamericano, produttore di formaggi Italian Sound, che in realtà poi erano formaggi di pasta, per cui pasta cotta, insomma, per cui erano tutti uguali, cambiava solo il colore. La proposta che io gli avevo fatto e che alla fine lui aveva accettato era: io capisco che tu non puoi rinunciare ai tuoi prodotti, allora facciamo un accordo con i casari veneti, cominciamo a produrre altri formaggi che ti consentano di sostituire pian piano quelli che tu stai vendendo Italian Sound con una qualità, con un livello consono, eccetera eccetera, in modo che tu non rinunci al profitto, però tu pian pianino mi esci dal mercato. Mi pareva una proposta interessante e l'imprenditore ci stava, perché avrebbe cominciato a produrre formaggi di qualità, eccetera eccetera. Certo. Quando sono tornato in Italia, il no mi è venuto dagli italiani. Ho capito. Torsi, mi è venuto. Allora questo diventa un problema, fra virgolette, di incapacità imprenditoriale e industriale. Beh, certo, questo. Ma guardi, io sostengo una cosa molto molto molto forzata, forse, che l'Italian Sounding è nato perché gli imprenditori italiani non hanno saputo corrispondere all'offerta di prodotti italiani in giro per il mondo. Incapacità imprenditoriale. Sentiamo, grazie, la ringrazio. Michele da Padova, buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo dire che non so se ho identificato male l'argomento, ma la questione del prosecco alla spina, penso, credo, se non ho appunto capito malissimo, quello venduto in Inghilterra poi di fatto non solo non è prosecco, ma probabilmente non è neanche vino. Ma il prosecco alla spina è una cosa normalissima in qualsiasi trattoria qui del Veneto? È normalissimo andare a mangiare pesce e vedersi servito del prosecco in caraffa proprio perché viene spinato? Ci sono delle norme, io mi rivolgo a Vaccari, ci sono delle norme. Allora, guardi, intanto il prosecco DOC di OCG non si può spillare alla spina. La maggior parte è glera, cioè un vino che molto spesso è un IGT Venezia o un altro, qualsiasi altro tipo che nel disciplinare ha questa possibilità, viene fatto. Ma il prosecco non si può spillare. Volevo dire solamente una cosa però sulla questione culturale. Qui il fatto che sia patrimonio culturale non è una chiacchiera tanto perché ci piace fare poesia, è che quello è un termine giuridico che ci consente di chiudere i siti internet e di stoppare la vendita del prosecco in tab. Cioè è giuridicamente una cosa molto robusta. Ma per il Wine Kid esiste lo stesso problema? Assolutamente sì. Ma su Amazon e su eBay però continua a circolare. Allora, eBay ne abbiamo chiusi 8 solamente negli ultimi 5 settimane di Wine Kit, e c'è una grande collaborazione da parte di eBay di chiudere tutti i Wine Kit, tant'è che lentamente li stiamo chiudendo tutti su eBay. Con Amazon, perché abbiamo una bilaterale che ci consente di chiudere, tra l'altro, i siti puntuali. Faccio presente che la chiusura di quel sito è importantissima perché il venditore nel ranking di affidabilità dei prodotti scende. E voi sapete che su internet chi è che va sul TripAdvisor, chiunque, il ranking del venditore è importantissimo. Cioè noi stiamo abbattendo l'avviamento di questi signori che vendono falso made in Italy, che è una cosa importantissima. Bene. Amazon ci stiamo lavorando, insomma, veramente ci stiamo impegnando al massimo. Bene, la ringrazio così dei suoi chiarimenti e speriamo veramente che sia Wine Kid Prosecco alla Spina, poi possono vendere alla Spina tutti i vini che vogliono, perché è vero, c'è una grande produzione in Italia in alcune aree, cominciare dalle aree appunto dove si produce Prosecco DOC, Prosecco DOCG, c'è anche appunto questo vitigno da cui si produce il Prosecco che si fa vino da tavola, quindi il vino da tavola probabilmente è vero, si può vendere. Sì, sì, si può vendere tranquillamente e naturalmente il giochino sta nel fatto che utilizzando lo stesso vitigno che si usa per fare il prosecco, chi serve vino dice questo è come il prosecco e viene una, e in effetti però non si può fare prosecco alla Spina. Ma abbiamo il presidente delle vini d'Abruzzo, del consorzio dei vini d'Abruzzo, in particolare del Montepulciano, che è uno tra i vini più, come posso dire, sofisticati, copiati, perché nei Wine Kids spesso appare la dicitura Montepulciano d'Abruzzo. Buongiorno Tonino Verna. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, dottor Paolini. È alto il, diciamo, questo processo per voi di vini appunto in Wine Kid e di sofisticazioni nei paesi esteri? Sicuramente il Montepulciano d'Abruzzo è uno dei vini, insieme ai più agli altri blasonati d'Italia, Barolo, Brunello e altri ancora, uno dei vini più che si cerca di scimmiottare, di imitare. Però io oserei dire, non parlare che sono vini, anzi sono prodotti bevanda, perché il vino, per la rigorosa legge di legislazione europea, al vino non si può aggiungere acqua, e siccome questi chitti fanno dell'acqua e delle polveri un prodotto bevanda, che poi si chiami Brunello, Montalcino, Montepulciano, Tocai eccetera eccetera, io penso che nulla ha a che vedere con questa sostanza, perché come io amo dire, il vino si fa e non si fabbrica. Quello che viene fuori dal kit è una fabbrica, il vino è tutt'altra cosa, si fa in campagna, col contadino, con le uve, in cantina, quindi sono concetti nettamente diversi. Tonino, ma voi, dottor Verna, ma voi avete molte segnalazioni appunto di questi Wine Kid in giro per l'Europa, per il mondo anzi? No, però cominciano ad esserci, e io penso che a stretto giro, e soprattutto quest'anno in occasione dell'Expo, dove si tratta dell'agroalimentare di qualità, genuino, il percorso, se così si può dire, la filiera corta, allora io penso che le autorità mondiali, dal WTO all'Unione Europea, debbono affrontare questa problematica con molto rigore, perché pare ad oggi che questo non solo si possa fare, ma che non sia neanche perseguibile. Quindi allora è un problema serio. Certo. Il ruolo dei consorzi è fondamentale, non solo quello dell'Abruzzo, ma di tutti i consorzi che difendono le DOP e le IGP, è proprio quello di comunicare agli organi di repressione frodi, ai governi, alle commissioni mondiali che trattano i rapporti commerciali tra gli stati, questa irregolarità, che non è soltanto un'irregolarità amministrativa, stiamo attenti, è un problema di frode e inganno al consumatore. Certo. Qui non si può dare al consumatore, si può spacciare un Montepulciano fatto col chitto o un altro vino dicendo che è un vino. No, noi abbiamo la legge europea che dice che il vino si fa con le uve. Grazie Tonino Verna, presidente del consorzio del Montepulciano. Ora un famoso produttore di prosecco in linea con noi, Gianluca Bisol. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Davide, sì. Buongiorno a tutti. Abbiamo parlato appunto del caso inglese del vino alla Spina, del prosecco alla Spina. Qui ho tantissimi sms, ci sono state anche telefonate, in cui dicono vabbè, ma in Veneto c'è questa abitudine, perché far finta che niente succeda. E il prosecco mi dice anche, guardi, ma cosa dite, il prosecco alla Spina c'è anche qua in Veneto, mi dice un radioascoltatore su sms. Sì, in effetti, guarda, è una cosa che volevo sottolinearti. Non solo questo, ma anche addirittura mi è capitato anche questa settimana in un albergo a 5 stelle nella provincia di Padova, nel bar di questo albergo, nella tabella scritto Prosecco, il nome dell'azienda, e poi quando ho chiesto di vedere la bottiglia era semplicemente un vino spumante. Quindi oggi la parola Prosecco viene un po' abusata, e questo è un fenomeno che riflette la notorietà di questo certo, vino, certo, che è diventato, oltre che un vino, anche un brand, diciamo. Succede come, no? Con la moda, la stessa cosa con i marchi e con le grife di moda. Esattamente, quindi io dico, una delle attività più importanti che devono fare i consorzi e stanno facendo e devono fare ancora di più, direi che è quella di pensare in primis di tutelare la qualità, quindi andare a controllare i produttori, ma in seconda battuta di essere consapevoli, di essere tutelanti di un brand che è Prosecco, e andare quindi con ispettori propri nei punti vendita a chiedere Prosecco o Prosecco di Valdobbiadene e vedere cosa viene servito. A quel punto, questa è un'attività che va anche a tutela del consumatore, viene evidente che in molti casi, ti posso dire che non sbaglio dicendo che almeno su 4 casi su 10, facendo questa domanda in un luogo pubblico in Italia, in un ambiente, in un bar o anche all'estero, ma soprattutto in Italia, io denuncio questa cosa, 4 volte su 10, di fronte alla richiesta di un prosecco o di un prosecco di Valdobbiadene, viene dato un altro spumante con nonchalance, e quindi è una truffa al consumatore, e come tale andrebbe affrontata da parte dei consorzi con ispettori che girano, e sarebbe il migliore investimento, migliore che non andare in giro a fare fiere. E a questo punto, un po' come faceva AG quando contrastava l'effetto dei caffeinati non AG di fronte alla richiesta di un AG, o Coca-Cola lo stesso contro la Pepsi-Cola, si potrebbe recuperare molta credibilità nel mercato, perché poi il danno, oltre ad essere una truffa del consumatore, è anche un grande danno all'immagine della qualità del prosecco, che invece oggi è un prodotto tutelato a livello qualitativo in modo straordinario, e quindi l'attività che facciamo nella produzione, che viene certificata dai consorzi, deve essere anche poi rispettata negli ambienti. Bene, nei locali pubblici. Ti ringrazio, perché ci stiamo avviando sul finale. Mi spiace perché ci sono tante telefonate ancora in attesa e tantissimi sms. Ne voglio leggere solo uno perché mi diverte troppo. Un vino cattivo rimane tale anche se è certificato di OCG. Sì, andiamo sulla qualità, caro radioascoltatore, ma non, diciamo, non andiamo sulla sofisticazione. Invece ci doveva essere una telefonata di Franco da provincia di Firenze. Mi vedo sotto cosa dice: si sta facendo qualcosa per l'accordo TTIP, e cioè l'apporto di libero scambio degli Stati Uniti con tutti i paesi europei. Io credo proprio di no, caro Franco, credo che questo accordo veramente creerà non pochi problemi a tutta l'Europa, alle denominazioni, agli OGM e tante altre cose. Ma ora abbiamo chiuso. Io ringrazio il professor Valenti, che è stato qui con noi. Grazie. Grazie a voi. Grazie, e ringrazio tutti i radioascoltatori che sono intervenuti, e mi spiace per quelli che erano in attesa o erano con un SMS senza risposta. Un buon weekend a Davide Paolini. Ringrazio anche Miriam Lucchetti in redazione con Anita Parizza e Gianmarco Ferronato in regia. Alla prossima settimana.